Pronto? Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Pronto? Chi è? Sì? Pronto? Chi è? Sì? Pronto? Chi è? Sì? Sono io. Chi è? Sì? Signora. Sono io. Signora, sono io, ma tra l'altro non è più pane lento. Sì, Yuki. Qua con c'è la tutta. Chi è? Io non mi incazzo. Sì, Yuki. Siamo un dominio. Chi è? Gennaro, Giannanini. Chi è? Chi è? Chi è? Sta cacciando, quando è vero la parola. Romeo, chi è? Siamo del pianeta Enterprise. Chi è? Vogliamo una pizza. Margherita, portacela immediatamente. Chi è? Questa conversazione non c'è mai stata. Tu non ci conosci. E non negare l'evidenza. Volante 1, volante 2. Tengo fam. Volante 2, che te ramba fa? Ma che è? Come è Armenio?